Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchesi, si apre una nuova settimana di un nuovo anno, il 2011, di Italia in controluce. Due edizioni, 6.30, 13.30, che ogni giorno raccontano la politica, la cronaca italiana, il costume, la cultura e lo spettacolo. Tempo di viaggi, di vacanze, di andate e di ritorni, e di questi tempi torna l'antica domanda: riuscirà un giorno qualcuno a mettere a posto la mitica Salerno-Reggio Calabria? Il reportage di Andrea Salomone. Con esodo e contro esodo torna ogni anno per milioni di italiani l'incubo Salerno-Reggio Calabria. Una via crucis di 443 chilometri tra cantieri, code e arrabbiature. È così da 14 anni, da quando è cominciato l'ammodernamento dell'autostrada. E sarà così ancora per un bel po'. Quanto? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci. Su 440 chilometri, la metà, 210 chilometri, sono già stati realizzati. I restanti chilometri, 170 chilometri su 440, sono in costruzione. Su questo tratto, su questi lavori, abbiamo preso un impegno a completarli entro la fine del 2013. Non è un impegno facile a realizzarsi. Dobbiamo lavorare molto noi e il contesto in cui noi andiamo a operare. Quindi noi abbiamo ancora 60 chilometri di tratti progettati, i progetti sono pronti, per un investimento di circa 2 miliardi e mezzo di euro che attendono appunto di essere finanziati per poter avviare le gare e quindi i lavori. Noi dal momento in cui verranno assegnati i finanziamenti saranno necessari 4-5 anni, dipende dalla complessità dei lavori, per il loro completamento. Questi finanziamenti noi ci attendiamo che siano previsti nel piano per il Sud. L'inviato del Corriere della Sera, Sergio Rizzo, nel suo libro La Deriva, rileva un dato paradossale che fa riflettere. Per costruirla ci sono voluti, mi sembra, 11 anni. Per ammodernarla ce ne vorranno una ventina, tutto compreso. Grosso modo. Per non parlare dei costi, letteralmente esplosi nel corso degli anni. Quando l'autostrada Salerno-Reggio Calabria venne fatta, cioè dal 63-64 fino al 70-75, 74-75, venne spesa una cifra paragonabile, a attualizzandola oggi, a 5 milioni di euro al chilometro. Adesso siamo arrivati, secondo l'ultimo piano finanziario, a circa 22 milioni al chilometro. Quando il presidente dell'ANAS parla di contesto dell'opera, fa riferimento al problema delle infiltrazioni criminali nei cantieri. Noi stiamo sviluppando insieme con i ministeri, insieme con il governo, insieme con la prefettura di Reggio Calabria, un progetto di sorveglianza continua nelle 24 ore su tutti quanti i cantieri, in particolare del tratto Regino, in cui si sono registrati i maggiori atti intimidatori e i danneggiamenti. Ma questo da solo non basta, secondo Walter Schiavella, segretario generale della Fillea CGIL. Un intervento sulle regole generali del sistema che contrasti il metodo di aggiudicazione delle aste al massimo ribasso da un lato, che limiti e controlli le catene dei subappalti, che rafforzi la responsabilità in solido, che costringa gli stessi contraenti generali a farsi carico direttamente di una quota maggiore di lavori da svolgere direttamente, internalizzando una quota maggiore di fasi produttive, sicuramente darebbe il senso di una presenza dello Stato che da sola, in termini di mera presenza fisica delle forze dell'ordine, per quanto è importante, non è sufficiente. Ma alla fine, dopo 20 anni di lavoro e 11 miliardi spesi, come sarà la Salerno-Reggio Calabria? Forse non sarà un highway, visto che per 108 km sarà a 3 corsie, per 322 a 2 corsie. Sicuramente sarà a pagamento, come ci spiega Ciucci. Il pedaggio verrà introdotto gradualmente sulla Salerno-Reggio Calabria man mano che i lavori sono completati. La banda della Magliana è mai esistita? Pino Nicotti, giornalista e scrittore, prova ad offrire nuovi spunti di riflessione nel suo libro Cronache criminali. Cosiddetta perché in realtà poi si trattava della criminalità romana che, come riconoscono gli stessi magistrati, non ha mai avuto una cupola, cioè non ha mai avuto una direzione univoca, erano spezzoni spesso in lotta tra di loro. Io la chiamo la banda a geometria variabile. A Roma poi è una tradizione secolare la criminalità di quartiere, e di fatto poi erano bande di quartiere che hanno tentato, l'idea è venuta a un detenuto che si chiamava Selis, assieme a un altro che si chiamava Mancini, a metà degli anni 70, hanno tentato di imitare la camorra con la quale Selis era in contatto. Lui ammirava Cutolo e voleva fare a Roma qualcosa di simile, di organizzato, che controllasse tutto il territorio, ma non ci sono riusciti, anche perché quando hanno cominciato a gestire i traffici dell'eroina, le enormi quantità di quattrini hanno scatenato ancora più l'ingordigia e si sono sparati, alla fine si sono sterminati tra di loro. Però l'espressione banda della Magliana, l'espressione giornalistica che ha avuto fortuna. In sostanza è un libro che tende a ricostruire in un modo nuovo quella che è stata chiamata banda della Magliana e che sostanzialmente non è mai esistita. Non è mai esistita come un insieme, ma questo lo dicono gli stessi, la cosa curiosa è che lo dicono gli stessi magistrati. Il magistrato Giancarlo Capaldo, che attualmente sta indagando sul cosiddetto rapimento di Emanuela Orlandi, un'altra leggenda metropolitana che io smonto nel libro, ma avevo già smontato nel 2008 nel libro intitolato giusto appunto Emanuela Orlandi la verità, e lui ha detto che è un'espressione giornalistica, ma non è mai esistita una banda univoca. Questo stesso discorso lo fanno magistrati, altri magistrati come Lucia Lotti, che pure si è interessata alla banda della Magliana. La prima edizione di questo 2011 di Italia in Controluce su radio24.it. Trovate il blog di questo programma Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna puntuale alle 13.30 oggi su Radio 24 con altre storie.